mi pare che la cultura militarista in senso stretto, nel senso del nonnismo, del rapporto gerarchico e così via, forse sia un po' attenuata, ma la cultura della violenza, del bisogno di usare le guerre per risolvere i conflitti internazionali, ma soprattutto di usare le guerre per alzare il PIL e i guadagni dell'industria militare, non sia per niente attenuata, e la guerra in Ucraina in questo momento e le altre 58 guerre, perché non dimentichiamoci che in questo momento ci sono 59 guerre in corso nel mondo, anche se i nostri giornali ci parlano dell'unica che interessa mostrare, che è quella dell'Ucraina, le guerre sono 59, insomma, e la situazione non è per niente bella, perché un sacco di persone rispondono che è necessaria la guerra, che non si può fare nient'altro. E questo è appunto uno dei temi in cui abbiamo visto il giornalismo soffiare forte su questo fuoco. E a proposito di informazione e di giornalismo, un altro tema che tu hai seguito, è sempre stato così per quanto riguarda il militarismo o c'era più spazio per istanze diverse? No, c'era in assoluto più spazio per istanze diverse nella comunicazione generale, cioè non solo sul militarismo, ma anche sui diritti dei lavoratori, sui diritti civili, eccetera, eccetera. Una volta i giornali scrivevano di tutto, ovviamente c'erano quelli più allineati a destra, quelli più allineati a sinistra, per usare uno stereotipo di allineamento, ma c'era molto più dibattito. Oggi il mondo dei media è assolutamente omogeneo, risponde tutto alla stessa logica, con le stesse parole d'ordine, con i titoli che sembrano fotocopiati da un giornale all'altro, con pochissime voci dissenzienti. Su questo, come su tutti gli argomenti dei diritti civili, umani, personali, eccetera, sociali e così via. Insomma, sull'Unità, su Repubblica, sui giornali 30 anni fa, anche 50 anni fa, quando i giornali erano meno, c'erano tutta una serie di media che facevano articoli diversi sulla base della sensibilità del singolo giornalista, e invece oggi c'è un unico monoblocco culturale in cui tutto si muove con le stesse parole d'ordine. Io conto che in un futuro sia un po' diverso e ho molta fiducia nei giovani, anche perché i vecchi come me li conosco. Un certo tipo di cultura, tipo che la NAIA, il servizio militare obbligatorio, è un'idiozia che non serve a nulla, cose di questo genere, è sicuramente passato nella mentalità di tutti, quando i vari Salvini, la Russia, eccetera, eccetera, propongono NAIA o mini NAIA, vengono dileggiati da chiunque, a cominciare dai militari, che ben sanno che un servizio di leva non serve a nulla dal punto di vista della guerra, serve un servizio professionale oggi. E questo credo sia merito anche del fatto che 800.000 persone si sono rivolte con la legge che appunto è stata emanata 50 anni fa esatti, 800.000 persone si sono rivolte al servizio civile al posto del servizio militare, e questo ha creato un substrato culturale secondo me non più attaccabile. Però invece la cultura militarista, nel senso dell'esercito non più di leva ma professionale, ci vuole le armi, ci vuole le spese militari, ci vogliono, questo in parte c'è da notare uno scollamento molto forte fra quello che è il pubblico, la gente, il popolo, chiamiamolo come vogliamo per definire questa entità non ben definita che sono i cittadini, e quello che è la dirigenza. Basta guardare i sondaggi sulle armi all'Ucraina, no? I sondaggi sono sempre stati, in tutti questi 9 mesi, nettamente a vantaggio di chi si dichiarava contro l'invio di armi. Questo è un aspetto, cioè la coscienza che comunque le armi non risolvono, ed è un aspetto che però ovviamente i governanti e i politici ignorano bellamente, perché tanto possono fare quello che gli pare. Però da lì a una coscienza di possiamo costruire un'alternativa di pace, possiamo costruire un'alternativa di difesa non violenta, possiamo costruire una società che abolisce pian piano gli stati e i confini, in maniera che le guerre diventano impensabili per il fatto stesso che non ci sono più confini, questa è una cosa da cui siamo ancora molto molto lontani.